diretta dall'Euro. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Come va la situazione? Allora, siamo riusciti adesso a muovere i primi passi, con una grande tensione di fondo, il quartiere dell'Euro, insomma, stamattina è veramente surreale, sono tutte strade chiuse con i nastri dei vigili, decine e decine di camionette, insomma, intorno a questa enorme zona rossa, che prende insomma tutto un quadrante dell'Euro intorno a questo palazzo dei congressi che oggi ospiterà gli stati generali con la presenza anche di Berlusconi, insomma. E chiaramente la tensione è alta perché addirittura ci hanno in questo momento negato quel migragnoso corteo che ieri la questura ci aveva autorizzato, mentre le rassicurazioni che arrivavano dal sindaco, che i movimenti Lotta per la Casa hanno incontrato venerdì, erano quelle comunque di garantire un diritto a manifestare, garanzia che invece insomma nei fatti sia ieri in più di 5 ore di trattativa con la questura era stata appunto ridotta a poche decine di metri di corteo e che adesso in piazza viene messa fortemente in discussione. Il corteo però appunto è partito, nonostante appunto la giornata lavorativa e il grande impegno già legato insomma alla mobilitazione di sabato, anche oggi siamo più di un migliaio di persone già, abbiamo insomma cominciato a sfilare con le caratteristiche, i colori, le maschere di un carnevale irriverente che oggi vogliamo portare insomma nelle strade dell'Euro, un po' a riprendere il significato originale del carnevale che era quello insomma almeno per un giorno all'anno, per un periodo all'anno di prendere a calci nel sedere i padroni e i potenti di turno insomma, e quindi questo è anche un po' oggi il clima, se appunto non ci costringeranno nella trappola dell'ordine pubblico, delle zone rosse e quant'altro. Chiaramente sappiamo che quello di oggi non è insomma l'ultima tappa di un processo che deve essere insomma ancora molto lungo, perché quello che chiediamo è un cambio di passo importante e forte nel governo della città. Non ci possiamo accontentare della barzelletta delle Olimpiadi 2020, che chissà quale prosperità porteranno a Roma, quando sappiamo benissimo che il Comitato Olimpico non permetterà mai insomma, la vittoria di una città governata dai re del Bunga Bunga, dagli scandali insomma, che a livello internazionale si sentono molto di più di quanto non si percepisca all'interno della nostra cappa mediatica, tutta gestita dal Premier e dalle sue consorterie mafiose, criminali e quant'altro. Vogliamo quindi appunto oggi sfilare, vogliamo assolutamente che venga permesso insomma a Roma Città Bene Comune, che è una rete molto larga che va dai comitati per l'acqua pubblica, ai sindacati di base, ai movimenti di lotta per la casa, a tante tante esperienze di lavoratori e lavoratrici in lotta, in particolare i lavoratori e le lavoratrici dei tanti servizi pubblici privatizzati, esternalizzati, lavoratori che vedono il loro posto di lavoro sempre in bilico, sempre ricevono risposte dalle amministrazioni del tipo ci sono pochi soldi, c'è la crisi, non possiamo dare più garanzie, ma sempre in quella crisi, guarda caso, i soldi per il progetto fantasmagorico della nuvola di Fuxas che costa centinaia di milioni di euro, quelli si trovano sempre. Sempre appunto in risposta alla crisi si vogliono privatizzare le caserme, tantissimo patrimonio pubblico come i depositi dell'ATAC che abbiamo occupato la settimana scorsa simbolicamente, a dire appunto che c'è una possibilità di recupero urbano che non vada nella direzione di nuovo cemento, di attacco all'agro romano e quant'altro. C'è il comitato di Torbella Monaca contro il master plan che già sabato scorso in piazza era venuto insomma con un pullman a manifestare la sua opposizione a quello che è un progetto devastante dal punto di vista sociale e di impatto urbanistico insomma imponente, un progetto di riqualificazione che parla di nuove case, oltre 10.000 nuove abitazioni su quell'area che verrebbe in qualche modo triplicata dal punto di vista del consumo di suolo e che invece non apporta quello che veramente gli abitanti del quartiere chiedono, cioè l'incremento dei servizi pubblici, sociali, trasporto, mobilità e quant'altro. Questa insomma è un po' la manifestazione che sta sfilando. Adesso ci siamo già appunto fermati di nuovo al primo incrocio con Via l'Europa. E insomma continueremo magari le corrispondenze con questa radio anche per aggiornare insomma su come va la piazza, certamente. Esatto. Va bene, allora intanto grazie di questa grande parentesi in cui ci hai fatto una bella panoramica di ciò che è in piazza in questo momento a sfilare contro gli stati generali. Ci sentiamo sicuramente prima del GR, così ci dici quali sono gli sviluppi della mattinata e se tutto